festa la domenica è uno sballo, perché gioca la Roma ed io a Roma sono nato. Per un figlio del Colosseo non conosco un'altra fede, c'è soltanto la Roma, gode solo chi ci crede. Oh, oh, oh, oh. Che mi illumina la vita. Oh, oh, oh, oh. Il simbolo di Roma e della umanità è il